I suoi film non hanno mai avuto grande successo, grande riscontro in sala, ma sono stati amatissimi, studiati, seguitissimi, perché Jean-Luc Godard, scomparso all'età di 91 anni, è stato uno dei grandi sperimentatori della storia del cinema, un uomo che ha vissuto, ha incarnato completamente il cinema. E se oggi quel mondo del cinema, appunto, che lui ha spesso messo in crisi, ha spesso posto delle difficoltà, delle domande inquietanti, e quel cinema, appunto, che oggi lo piange perché ha perso, appunto, uno dei suoi grandi eretici. Un regista di buona famiglia, nato da una famiglia di origine svizzera, nato a Parigi ma di origini svizzere, una famiglia di banchieri, poi gli studi di etnografia, l'inizio come critico cinematografico, in particolare sui Cahiers du Cinéma, formando quella sorta di cenacolo che, appunto, fu poi la Nouvelle Vague, registi diversissimi fra di loro, ma accomunati in quel momento dalla necessità di rompere con il passato e di aprire degli occhi nuovi. È così che arriva il suo primo film, il suo lungometraggio fulminante d'esordio, Fino all'ultimo respiro, da un soggetto che gli passa François Truffaut, film abbacinante ancora oggi, con uno stravolgimento completo delle regole, della sintassi del cinema, compreso il cinema classico. Lui che ha sempre amato il cinema americano, in particolare quello di serie B se non quello di serie C, e poi l'impegno politico sempre in primo piano per un marxista come Godard è stato, e come ha espresso anche nei suoi film, la partecipazione al collettivo Gigavertov con film come Lotta in Italia, Vento dell'Est, e poi altre, una produzione che nel tempo non ha mai rinunciato all'irrequietà, che ha sperimentato i nuovi strumenti, i nuovi mezzi che l'elettronica poneva. In qualche modo Godard è sempre stato un insoddisfatto di quello, appunto, che lo sguardo riusciva a cogliere, e così sono arrivati tanti anche riconoscimenti, addirittura il premio Oscar nel 2010, il Leone d'Oro a Venezia con Prénom Carmen dell'83, con sempre uno sguardo anche molto critico nei confronti della religione, ma anche naturalmente con un approccio e con un impegno politico che non è mai venuto a mancare. Lui che amava vivere in maniera molto molto defilata, molto discreta, che ha parlato soprattutto anche rileggendo a suo modo la storia del cinema, con la sua histoire du cinéma, che è diventato un punto di riferimento per chi in qualche modo non si vuole accontentare dei canoni che, appunto, ufficiali, di cui anche il cinema si è dotato. Questo ciclo di lezioni tenute a Montreal, che poi si sono trasformate in materiale visivo straordinario, e Godard ha continuato, appunto, nell'ombra, un po' nel silenzio, seguito da una schiera di appassionati quasi votati al culto di un regista che, appunto, si è mosso sempre tra sperimentazione e militanza politica, tra sociologia e marxismo, ma sempre anche con un filo di ironia, in qualche modo facendosi portavoce della grande stagione delle crisi che a partire dagli anni, dalla fine degli anni 60, hanno colpito soprattutto la società occidentale. E con uno dei suoi ultimi film, l'ultimo lo ricordo del 2018, Il Livre d'Image, ma quello precedente di 4 anni prima, Addio al linguaggio, forse più di altri, sintetizza questa insoddisfazione, questa continua spinta che Godard ha portato avanti per tutta la carriera, rinunciando anche alle scelte, alle strade più comode, quelle della narrazione tradizionale, rinunciando a volte totalmente agli attori, decisamente sperimentando da un punto di vista formale. Lui che era convinto che, un po' come la grande scuola sovietica, che il montaggio fosse in effetti il segno più vivo, più importante che si potesse imprimere, appunto, nella visione o nelle visioni. Un grande intellettuale che si è mosso dentro il cinema, che ha visto nel cinema il grande terreno, appunto, su cui riflettere le difficoltà della seconda parte del Novecento, personaggio radicale, scorbutico, di cui ci mancheranno purtroppo tante intuizioni e tante provocazioni.